Perché tutto sommato i narcisisti, se non sono esagerati, comunque hanno un certo fascino nei confronti delle persone depresse, cioè la maggioranza della gente? Perché? E come mai tutte le persone, tanti, perché cosa vorrebbero che lo, essere come lui? Ma cosa c'è di valido nell'essere? Perché togliamo tutta la spazzatura, cosa c'è di valido in qualcuno che sa porsi con una certa forza? Con una, la sicurezza, una certa, no? Che, vitalità, ecco, la vitalità. Cosa c'è di animico nel narcisista? È l'energia vitale che esprime. L'aspetto evolutivo, da dove nasce il narcisismo? Dall'umiliazione. Se non diventava un po' narcisista, l'umiliazione dove lo portava? Alla morte, perché la depressione è l'energia vitale che si scarica contro di sé. Quindi, per non ribellarsi, per appartenere, dire sì, lui si annulla. Quindi l'altro cosa fa? Uno scatto di, come dire, di orgoglio, di energia e dice no. È uno che dice no, ok? Nel no c'è molta carica vitale. La vita eros, poi vediamo cosa vuol dire eros, erotizzare il no. No, io dico di no, perché se continuo a dire sì, io non esisto più, non esisto più, dico di no e comincio a esistere. Ecco, questo no che io dico al mondo è un no carico di energia vitale. Ora, è chiaro che è un livello in cui questa carica di energia vitale è sprecata poi alla fine, perché è una struttura poco intelligente, il narcisismo è piuttosto stupido. Ma quel nucleo di energia vitale è attraente. Perché che cosa fa il depresso? Vede il narcisista quello che a lui manca, vede nel narcisista le palle, vede quello che sa dire le cose, quello che non ha paura di niente. Poi è un'enorme testa di minchia. E dopo questo lo capisce col tempo, no? Però ha qualcosa che lui non ha, questa persona non ha. E allora, siccome tutti calcolano, non solo i narcisisti, anche il depresso calcola, e dice: cosa mi manca? Mi manca un po' di. E allora facciamo comunità con qualcuno che spacca il culo agli altri, no? Porca miseria, questo sì che mi piace. Ecco. Sai cosa succede quando si forma una coppia così, no? Quell'altro è più gentile, più carino, molto affabile, così, però non ha palle. Quell'altro invece è prepotente e ha le palle. E stanno così. Poi chi è che va in terapia? Questo no. Quest'altro no. Questo. Ci va lui. Ci va. Ci va, ci va, ci va, ci va. Dopo un po' cosa succede? Che comincia a sviluppare gli aspetti narcisistici, non li lascio solo a lui, comincio a. A un certo punto comincia a diventare un pochino più prepotente. E allora l'altro capisce che non può più fare come prima. O lo lascia subito, se ne va, oppure dice: aspetta, ma forse adesso sono già un po' più anziano, forse c'ha ragione anche lei, forse. E ci va pure lui in terapia. E va pure lui in terapia. Mettiamo che quest'uomo a un certo punto, che prima era così prepotente, andando in terapia si rende conto di quanto male ha fatto, no? E quindi comincia a diventare molto più pacifico. E se poi gli fate un'ipnosi abbastanza fatta bene sull'apertura del centro del cuore, magari il cuore gli si apre, poi arriva la volta dopo che dice: io ho cambiato vita. Sai che mi fermano le persone per la strada e mi dicono: che cosa ti è successo? Dice: no, vedi i tuoi occhi così luminosi. Dice: ho voglia di abbracciarti. E l'altro dice: ma anch'io. E diventa, cambia, lascia andare il narcisismo, no? E quindi diventa un essere più spirituale, gentile, carino. Bene. Cosa succede nella coppia? L'altra diventa di una prepotenza bestiale. Questo che ha fatto terapia dice: ma finché ero prepotente io, l'altro era un agnellino e credevo fosse così. Ho smesso di essere prepotente. Quell'altro è diventata una belva. Io adesso non voglio più esserlo prepotente, ma ti assicuro che quella persona lì non è affatto uno zuccherino come credevo e come tutti credono. È di una prepotenza infinita. Dice, quindi ecco cosa succede. Allora capite che la prepotenza era distribuita nella coppia. C'era chi manifestava quella fuori e chi manifestava quella dentro.